il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Certo che una volta che la sigla, cioè, è stata introdotta in questo modo, se anche io avessi un po' la luna girata, come si dice, dovendo iniziare allegra e frizzante, non posso fare a meno di darmi un contegno, un tocco, dire uno sprint. E quindi, anche se il tempo improvvisamente di nuovo è ritornato brutto, sembrava che a Milano ormai 28 gradi, l'estate è esplosa, niente, io non so dalle vostre parti. E comunque, insomma, non ci sono più le mezze stagioni, inutile, ce lo ripetiamo. Non ci sono più anche perché... Fino all'anno scorso eravamo abituati ormai da tempo a sapere che prima o poi, durante l'anno, più verso la primavera, ecco, spuntasse da qualche parte, in qualche zona italica, una pantera nera. Qualcuno aveva avvistato sicuramente una pantera nera, non so se è sempre la stessa che gira da qualche anno o insomma ogni tanto spuntano così dalle radure. Questa volta invece, per dire che non ci sono più le mezze stagioni, quindi i tempi cambiano, che cosa spunta? Un coccodrillo. Il coccodrillo, ancora non so se fosse visto in Italia, il coccodrillo l'hanno visto nel lago di Falciano, nel Casertano, e adesso sono alla ricerca di questo coccodrillo. Qualcuno dice no, è un alligatore. Vabbè, può che fa la differenza, la linea dei denti è sempre quella, ecco, se ti azzanna. Ecco, questo ci dice e ci conferma quindi che appunto non ci sono più le mezze stagioni, ma noi sfatiamoli insieme in questi luoghi comuni col numero 800 24 00 24, come sempre con me sino alle 15 voi ascoltatrici e ascoltatori, per raccontarmi che quali sono le notizie che vi hanno colpito, che opinione avete sui fatti di questa settimana, che sono sempre tantissimi. Cominciate un po' a fare mente locale, poi magari ogni tanto ve ne lancio io qualcuno, ve li elenco. Secondo voi, insomma, la notizia della settimana, anche quelle più piccole, non per forza la prima pagina, qual è la vostra libera opinione sui fatti della settimana? 800 24 00 24. Abbiamo iniziato con un certo anticipo per far vedere che anche nella giornata delle lavoratrici e dei lavoratori qui si lavora parecchio. È chiaro che tra poco vado a presentarvi quella che è la mia opinionista estemporanea di oggi, per avere anche il suo punto di vista sui fatti della settimana. Ma a proposito di animali che vagano, è stata la settimana degli animali. Un elefante girava per Bassano in Veneto, così si vede che era scappato dal circo un poco distante, e poi il poverino è finito nel giardino di una casa privata ed è stato riacciuffato. C'erano invece ieri o l'altro ieri una famiglia di anatroccoli, la mamma con i bambini, che giravano per Manhattan, così si vede che si sono un po' disorientati, o forse vogliono anche loro darsi un po' la vita della grande mela, così più vitale. Ma allora, non perdiamo altro tempo, volete sapere chi c'è oggi come mio opinionista estemporaneo? Ebbene, signore e signori, Lorella Zanardo. Era tanto che ti volevo, Lorella. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Lorella Zanardo. Per chi ancora non lo sapesse, non avesse visto quel suo documentario straordinario sul web, è salita, diciamo, la ribalta delle cronache con questo documentario che hai fatto insieme a due colleghi, no, Lorella? Sì, a Marco Malfi e a Cesare Cantussi. A Cesare Cantussi, che si chiama Il corpo delle donne, che è diventato famosissimo nei mesi scorsi. Non mi ricordo esattamente quando, a febbraio o prima l'avevi messo. Nel 2009, ed era sconvolgente, tutti si erano incuriositi, è stato un passaparola, in realtà poi è stata anche all'Infedele con Gard Lerner, insomma l'ha presentato da più parti, dove in modo sconvolgente metteva in evidenza con un collage il modo della TV italiana di rappresentare le donne e il corpo delle donne, no? Adesso questo documentario è diventato un libro pubblicato da Feltrinelli, Il corpo delle donne. Lorella Zanardo, dici qualcosa, se qualcosa vi fosse da aggiungere, insomma. Sì, ma devo dire che al di là del contenuto di questo documentario e adesso di questo libro, io trovo che quella che ci è accaduta è una storia bellissima che noi da un anno raccontiamo nelle scuole e nelle università dove ci chiamano. Da un anno siamo in tour per l'Italia. Scusami se ti interrompo, Lorella, perché tu hai detto che quello a cui miravi era far capire questa rappresentazione deformata, mistificata delle donne alle ragazze soprattutto. Certo, perché quando abbiamo fatto questo documentario, Ghezzi ha detto che non è un documentario, è un saggio visivo, e io credo che Ghezzi abbia ragione. Lui dice che è un saggio visivo perché c'è l'importanza del testo, che io ho scritto con grande partecipazione e dolore ha una forte impatto, perché in questo saggio, in questo documentario, io pongo delle domande, proprio perché non giudico e non ho neanche soluzioni, ma volevo far ripartire un po' il dibattito in Italia su perché noi donne, e vorrei dire anche noi uomini, accettiamo questa umiliazione continua, no? E avevo nel cuore le ragazze e i ragazzi italiani, perché mi sembrava brutto che noi adulti, molti adulti mi dicono: io questa televisione non la guardo più, spengo, però noi spegniamo, ma i ragazzini e le ragazzine la guardano, e la rappresentazione della donna che viene data è sicuramente umiliante. Quindi il documentario aveva così lo scopo di dire: parliamone, perché accettiamo questa umiliazione? E da lì è partito anche il progetto di andare nelle scuole, dove riscontriamo grande interesse da parte non solo degli insegnanti, ma dei ragazzini e delle ragazzine 15-16 anni. E dicevo che questa storia, al di là del contenuto, che spero che interessi, è una bella storia, perché è la storia di una donna che con due giovani amici uomini, quindi è un problema sentito anche dagli uomini. Beh, voglio sperare, certo. Certo, da una minoranza perché... probabilmente, ma c'è questa minoranza consistente. C'è, e tra l'altro tra i ragazzi giovani si sta diffondendo questa sensibilità. È partito, diciamo, io dico ridendo, dal salotto di casa di uno di noi tre, che è di Cesare, che con tre computer e tre videoregistratori, quindi diciamo un'attrezzatura minima, abbiamo fatto questo grosso lavoro di registrazione, abbiamo registrato 400 ore di intrattenimento televisivo, abbiamo fatto proprio in casa questo 25 minuti di documentario, l'abbiamo messo su un blog, quindi un'operazione a budget quasi zero. Bassissimo. Lo ricordo, tra l'altro, Lorella Zanardo, chi non l'avesse ancora visto da un anno a questa parte, andate all'indirizzo www.ilcorpodelledonnetuttoattaccato.com. Giusto, perfetto, Lorella. Grazie. Prego, no, è interessante, divulgativo. E poi, tra l'altro, Lorella dice anche durante questo documentario, poi nel libro, una cosa molto, quella essenziale, è questa. Dice: abbiamo introiettato noi donne il modello maschile di donna così a lungo e così profondamente che non sappiamo più chi siamo realmente, che cosa ci rende davvero felici, se il fatto di sculettare in TV, di rifarci questi seni come delle mongolfiere o cos'altro. Chi siamo, cosa vogliamo? E infatti io questo, che persino io, ma non perché io sia chissà chi, ma dico, io sono molto consapevole, no? Ho fatto questo documentario, questo libro, quindi dico anch'io che ho acquisito questa consapevolezza. L'altro giorno mi autolamentavo di aver preso peso e mi chiedevo: questa mia necessità di tornare magra, tra virgolette, è una necessità mia reale e quindi giustissima, o è indotta dal mercato? Che risposta ti sei data? È anche molto indotta dal mercato. Io forse vivrei meglio anche con 4-5 kg in più se non ci fosse questo diktat feroce. Diciamoci la verità, noi donne siamo sotto dittatura, cioè c'è una pressione continua, non solo della TV, della pubblicità, delle affissioni, per cui dobbiamo sempre essere magre, lisce, non invecchiare mai. E se la sento io, che ci penso e ci scrivo tutti i giorni, immagino una donna di spettacolo che inferno deve vivere, no? Cioè ti senti veramente non a posto se non corrispondi a questi modelli. Il rischio che domani una più bella, una più giovane, una più liscia, una con più seno, con più labbra, prenda il tuo posto. Questa è la non è più questo, competente. Per cui io ho molta comprensione, tant'è vero che ai dibattiti spesso mi contestano, perché io esordisco dicendo che il mio documentario è un'accusa dura contro la televisione pubblica e privata, ma sono sempre dalla parte di veline, schedine, meteorine e pure escort. E suscito grande disapprovazione, ma credo di avere ragione, se posso dire, perché vedo tantissime situazioni dove incontro ragazzine che hanno avuto la TV come modello da quando avevano 2 anni. E quindi che società ipocrita è quella che adesso si chiede come mai molte ragazze vogliono fare le veline? E perché hanno avuto quello come modello, e ora che cominciamo anche a offrire modelli alternativi. Bene, Lorella Zanardo, adesso questo quindi è il succo del libro Il corpo delle donne di Lorella Zanardo. Non è questo l'argomento della puntata, sapete che però presento sempre il mio opinionista estemporaneo con il suo ultimo libro, argomento estremamente interessante, andate a vedere appunto anche il sito www.ilcorpodelledonne.com, però sapete che questo è lo spazio per raccontarci insieme, per confrontarci insieme sui fatti della settimana questa, fresca come le uova, le notizie. 800 24► 0024. Qual è la vostra opinione sulle notizie di questa settimana? Qual è la notizia in particolare che vi ha colpito? Stavo guardando adesso, prima di fare il collegamento extraplanetario, sapete, ci vuole anche un punto di vista un po' più distante, un po' più dall'alto rispetto al nostro così terreno. C'è un'agenzia appena battuta, il titolo è Pedofilia, la Santa Sede dice gravi delitti dal fondatore dei legionari. Ogni tanto ce n'è una nuova. I gravissimi obiettivamente immorali comportamenti di padre Marshall Maciel de Gollado, fondatore dei legionari di Cristo, confermati da testimonianze incontrovertibili, si configurano talora in veri delitti e manifestano una vita priva di scrupoli e di autentico sentimento religioso. Lo afferma il comunicato della Santa Sede diffuso al termine delle riunioni in Vaticano con 5 vescovi incaricati della visita apostolica a questi legionari di Cristo. E adesso, insomma, astraiamoci un po' dalle questioni terrene. Riflessioni da Marte. Beh, da quassù, da Marte, le cose della Terra si vedono sempre, no? In una certa ottica, da una prospettiva particolare, ma si sa, Marte è un pianeta un po' lontano e oggettivamente un po' marziano, diciamolo. In ogni caso, si dice da tempo, l'ha detto anche Lorella Zanardo, della TV italica, si dice, mi smentirete, se non è vero, che ormai è inguardabile, che ormai è spazzatura. Allora mi chiedo, qui dal mio pianeta, di cosa ci si scandalizza? Di cosa ci si sorprende se poi la gente, da tempo privata e deprivata di spettacoli coinvolgenti, corre a battere le mani al boss appena arrestato o a quello pluriomicida appena uscito per un permesso speciale, come è avvenuto questa settimana? È colpa della televisione, che non offre più programmi degni di applausi, e così la gente, più che la fiction o reality, corre ad applaudire la realtà che, come sapete, spesso supera la fantasia. Le organizzazioni mafiose, tuttavia, attenzione a quello che dico, sono in declino nella loro truculenza. Ebbene sì, secondo le statistiche emerse proprio questa settimana, da tempo in Italia gli omicidi mafiosi hanno un temibile e soprattutto imbattibile concorrente: gli omicidi in famiglia, di cui l'Italia in Europa ha l'assoluto, dico assoluto, primato. Gli uomini non mafiosi uccidono più donne di quanto gli uomini mafiosi uccidano rivali e persone innocenti. L'Italia è davvero un paese straordinario. Due donne uccise, perché sono loro nella stragrande maggioranza dei casi le vittime familiari, due donne uccise, dicevo, ogni settimana da mariti ed ex mariti, senza che nessuno dica beh. Un femminicidio costante, trattato come un qualunque fenomeno fisiologico, del resto tipo la carie che colpisce i denti della popolazione o il calcare che rovina le lavatrici, niente di più. E le risorse per combattere i delitti, gli omicidi, sono per l'80% direzionate verso la lotta alla mafia, mentre pochissimo è dedicato alla giustizia familiare. Del resto si sa, lo sapete anche voi, i politici in Italia hanno ben altre priorità. E una donna che denuncia minacce e violenze è credibile solo da morta. Effettivamente, quando è cadavere, l'espressione della faccia è decisamente più seria. E poi diciamolo, di donne in Italia, dai, ce ne sono a bizzeffe, non scompariranno certo perché ne vengono trucidate due alla settimana. E che diamine, non perdiamoci in queste inezie. Ha fatto bene piuttosto la giunta comunale di Bergamo a vietare per i prossimi giorni l'esposizione all'aria aperta di una mostra fotografica che ritrae baci tra ragazze e baci tra ragazzi, insomma baci gay. È molto meglio, infatti, più educativo che la gente s'ammazzi piuttosto che si ami. Però, e qui c'è la buona notizia, mentre a quanto pare non esiste antidoto per gli uomini che si sentono proprietari della vita delle donne e continueranno quindi a avere il sacrosanto diritto di farle secche, è stato inventato uno spray all'ossitocina che rende teneri ed empatici gli uomini scorbutici. Sembra fantascienza, in realtà è il risultato di uno studio serissimo condotto dai ricercatori dell'Università di Cambridge e di Bonn e pubblicato dal Giornale delle Neuroscienze. Quindi, nel prossimo futuro, alcune fortunate di fronte alla scorbuticità dei propri compagni potranno inondarli di spray all'ossitocina e subito dopo cantare. Eccoci qui con i piedi ben saldi sulla terra. 800 24 00 24. Lavorate un po' anche voi insieme a me oggi, primo maggio, e raccontatevi mentre girate, mentre qualcuno lavorerà anche certamente, mentre qualcuno sarà in macchina verso le proprie brevi vacanze o va a trovare qualcuno o qualsiasi altra attività. Quali sono le notizie che vi hanno colpito questa settimana e qual è il vostro libero parere? 800 24 00 24, numero verde. Cosa avrà colpito, per esempio, Lorella Zanardo? Lorella. Ma io devo dire che mi ero preparata con delle notizie, ma quello che hai detto prima, anche se è un argomento terribile sulla pedofilia e le genere di Cristo, è una notizia che io sto seguendo da un po' di tempo e mi inquieta moltissimo. Perché? Perché in un qualche modo io la trovo molto collegata a quello di cui mi sono occupata quest'anno, questa attenzione ormai morbosa sui bambini, sulle ragazzine, da parte di tutti, no? In particolare se esaminiamo la pubblicità c'è un'attenzione fortissima ai giovani corpi, no? Una delle cose che io trovo, dei fenomeni che ho trovato inquietanti negli ultimi due anni, ma negli ultimi mesi ancora di più, è come la moda utilizzi per pubblicizzare abiti che poi dovremmo comprare noi, donne adulte, bambine ormai, no? Di 13-14 anni, di cui non subito ci accorgiamo dell'età, perché sono truccate e messe in posizioni che possono ingannare, possono sembrare 18 anni. E poi andiamo a vedere che hanno 13 anni. Allora, alcuni mi dicono, ma lei ritiene direttamente collegato il fenomeno della pedofilia a questo? Io non voglio dire questo, però sicuramente questa attenzione che io chiamerei morbosa ai giovani corpi, tanto bene non fa alle ragazzine. Questa attenzione che hanno su di loro, che sentono nella crescita, sicuramente crea degli scompensi. Una delle cose che a me colpisce e che dico nel libro è che, per esempio, se noi pensiamo cosa prova una ragazzina quando accende la televisione, poniamo una quattordicenne, e vede che le veline, che hanno spesso 18-19 anni, suscitano un interesse esagerato in uomini che potrebbero essere i loro nonni, no? Se noi pensiamo alla notizia, i due presentatori hanno quasi 60 anni o li hanno superati, quindi sono dei nonni, e le due ragazzine hanno 18 anni. Quindi io da casa, che ho 14-15 anni, percepisco che il mio corpo ha un potere immenso, anche se non riesco a rendermene conto fino in fondo. Ecco, io credo che questa attenzione morbosa sui giovani corpi sia una cosa da arrestare, e direi che è importante che le ragazzine debbano avere il diritto di crescere così come fa un fiore, in fondo, no? In modo un pochino più leggero, più discreto, più libero, più riservato, perché sicuramente poi ci angosciano queste notizie, questa che tu hai detto in apertura, però vediamo anche di creare un contesto dove queste cose non possano così proliferare come sta accadendo ora. 800 24 0024, facciamo sentire la prima ascoltatrice, Francesca Carla, da Brugherio. Francesca, sì. Sì, buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Buongiorno, ho sentito Francesca. Quanto ha detto l'ascoltatrice prima, no? Ascoltatrice? No, è Lorella Zanardo. Sì, l'ospite, l'opinionista estemporanea di oggi. Io sono d'accordo, e infatti adesso volevo parlare, facendo diciamo una parentesi, perché non è il fatto che mi ha colpito di più nella settimana, sono successe tante cose brutte veramente, ma questa qua così mi ha colpito perché ho detto Noemi Letizia, no? E ho letto su un quotidiano, cioè, quella del famoso scandalo dice, per i miei 19 anni mi sono rifatta il seno, mi sono regalato il seno nuovo, la bocca e il naso, e sono rimasta perplessa perché a 19 anni una ragazza che nel fiore della vita cosa potrebbe desiderare? Di correre su un prato, trovarsi con le amiche, scherzare, ridere, parlare magari di morosi, di fidanzati, sentirsi carina con un bel vestito, un bel paio di pantaloni, ma rifarsi, ritoccarsi, questo è impressionante. Ma io dico, questa ragazza è come lei altre ragazze che ho sentito, sembra fantascienza, ma è così, a 30 anni, a 40 anni cosa faranno? Francesca Carla, hai visto, sei stata comunque molto pertinente, perché questa è una notizia della settimana, forse da gossip, ma che effettivamente è emblematica e si riallaccia perfettamente al libro di Lorella Zanardo e anche all'osservazione che faceva lei, un po' legandola all'ultima notizia che avevo letto, appunto, di questa dichiarazione del Vaticano rispetto ai delitti del fondatore dei Legionari di Cristo. Allora, Lorella Zanardo, intanto, mentre ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori per le loro libere opinioni sui fatti di questa settimana, ogni volta naturalmente ci aggiorniamo e ci confrontiamo sui fatti freschi della settimana, il numero è 800 24 0024. Ti dicevo che appunto il Presidente del Consiglio ha rilanciato il nucleare in questo vertice con Putin e ha detto la RAI promuoverà degli farà degli spot per far capire agli italiani la bontà del ritorno nucleare. Se tu dovessi fare uno spot per convincere gli italiani, cosa diresti? Ma io direi quello che non si fa mai è che farei una campagna su la responsabilità che ha ognuno di infermarsi per conto proprio, quindi di innalzare il livello di consapevolezza, di diventare cittadini consapevoli, quindi direi leggete, informatevi, dedicate mezz'ora tutti i giorni del vostro tempo ad informarvi per prendere poi decisioni autonome, quindi il nucleare può essere, ma studiamo anche le energie alternative, quindi non farei delle raccomandazioni su un'energia piuttosto che un'altra, ma lavorerei moltissimo a partire dalle scuole sull'importanza di prendere in mano la nostra vita e informarci, quindi non seguire i diktat esterni, ma informarci attraverso la lettura, attraverso la rete, anche attraverso la televisione, però decidere con la nostra testa in modo autonomo. Numero verde 800 24 00 24. Oggi, come vi ricordavo, come sapete, è il 1° maggio e sapete che si comincia un po' a discutere anche sulla giustezza o meno il giorno della festa dei lavoratori di invece comportarsi da un punto di vista lavorativo come un qualsiasi altro giorno. Per esempio, c'era stato il dibattito anche a Milano, ma poi la giunta ha detto di no sull'apertura dei negozi oggi in diverse città, tra cui per esempio Palermo, invece si sono tenuti i negozi aperti, qualcuno pro, qualcuno contrario. Tu cosa ne pensi, Lorella Zanardo, di questa cosa? Ma io penso che fare una riflessione sull'importanza del 1° maggio sia fondamentale, perché molto spesso ci dimentichiamo da dove arriviamo e dimentichiamo un approccio storico anche alla quotidianità, cioè da dove arriviamo? Arriviamo da inizio secolo, quando tutti, anche i bambini, lavoravano 12-14 ore al giorno, dove non c'erano sabati, dove non c'erano domeniche, dove la mortalità infantile era alta proprio perché le condizioni di lavoro non avevano pietà. 100 anni di lotte di lavoro, di lotte sindacali, al di là di quello che ognuno di noi può pensare, io credo che non sia riconducibile all'essere di destra o di sinistra. Tu sei un'imprenditrice, tra l'altro. Quindi. Sì, sì, però io credo che dobbiamo veramente pensare a chi ha dato spesso proprio la vita per queste lotte, che hanno fatto sì che oggi ci sembra normale, però lavoriamo 8 ore al giorno, il sabato e la domenica giustamente siamo a casa. Ricordiamo che fino a pochi decenni fa il sabato si lavorava 12 ore al giorno e si lavorava per sopravvivere. Quindi io credo che sia corretto avere un momento durante l'anno in cui si pensa da dove siamo arrivati e, come dire, serve anche a proteggere le conquiste che sono costati anni e anni di battaglie. Quindi, Lorella, come ha detto Napolitano oggi, mi sembra il 1° maggio non è un residuato post bellico. No, non lo è, e io credo che questa sia, dirlo vuol dire dimenticare che avere un approccio storico anche appunto alla quotidianità, al presente, vuol dire anche evitare di ripetere errori, no? Valorizziamo l'esperienza che già abbiamo alle spalle. Teresa da Roma, sempre al numero verde per i fatti della settimana, 800 24 00 24. Teresa. No. Io volevo portare la mia esperienza come mamma di due ragazzi adolescenti maschi, con tante amiche femmine, molto curate, molto attente al loro look, ma non per questo, diciamo, gettualizzate dai loro coetanei. E penso che invece, sicuramente i media con certe forme un po' esasperate tendono ad oggettualizzare la donna, il corpo, a stimolare fenomeni anche di pedofilia, eccetera. Però penso che il fenomeno sia un po' più complesso, perché voglio dire, storicamente le spose bambine non fanno parte di oggi, fenomeni come la pedofilia, certo, anche in altri paesi del mondo, delle meraviglie è lo stesso. Quindi non penso che sia un fenomeno semplicemente riconducibile ai mass media. Penso anzi che i giovani d'oggi siano molto più portati ai rapporti paritari, ecco. Teresa, dimmi anche una cosa, stavo guardando una ricerca che avevo scorto questa settimana, secondo la quale, una ricerca europea, secondo la quale l'Italia, il nostro paese, ha il primato, oltre che negli omicidi in famiglia, anche su questo altro aspetto, cioè gli adolescenti nel nostro paese imparano il sesso, la sessualità per, diciamo, una larghissima maggioranza, credo fosse intorno al 60%, dalla televisione. Non so se ti faccio una domanda imbarazzante, di solito i genitori di figli maschi sono meno imbarazzati per una questione culturale dei genitori di figli femmine, ma in famiglia, tu hai detto, ho due figli adolescenti, ne parlate così abbastanza apertamente o no? Di sessualità? Sì, di sé, da sempre, da quando erano più piccoli, in maniera molto pulita, in maniera molto semplice, però non ci sono tabù nella nostra famiglia, e vedo che anche loro sono, non vivono il sesso come cosa sporca, come cosa da nascondere, o come sopraffazione a volte. Prego? O come sopraffazione a volte, no? Assolutamente no. Io questa cosa, almeno nella mia esperienza, poi siccome sicuramente ci sono altre realtà e altri contesti, però nella mia esperienza di madre, che sto vedendo crescere i miei ragazzi che hanno quasi 18 anni, io vedo che il rapporto che loro hanno con le loro coetanee è un rapporto diverso da quello che io avevo ai miei tempi. Ai miei tempi vivevo molto più la sopraffazione rispetto a quello che vedo i giovani vivono tra di loro. Meno male. Vedo molto più paritetico il rapporto tra maschi e femmine, anche se queste stesse femmine sono super truccate, tacchi a spillo, super minigonne. Però io quando uscivo alla loro età mi mettevo la gonna un po' più corta, ero fischiata, e oggi non lo vedo questo. Questa è una cosa positiva, secondo me, estremamente. Grazie Teresa, salutaci. Grazie. Anche i tuoi figli, c'è Andrea da Cuneo. Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea. Niente, dimmi una cosa, dimmi solo una cosa Andrea, tu la stai lavorando oggi? No, oggi no. Per sapere, sei anche tu un lavoratore lavorante. Prego. No. Prego, ecco, a me fa sempre riflettere quando il Papa continua a chiedere scusa di questa pedofilia, di tutte queste cose. Insomma, lui continua a chiedere scusa. L'ultima notizia l'abbiamo letta adesso, sì. Peccati, mentre il resto del mondo considera reati. A me questa cosa qui dà in testa, che nessuno gli dica guarda che quelli non sono peccati, debolezze umane, ma sono reati. E quindi facciamo confusione in questa cosa qui. Al Papa gli si permette questo. È come se io domani andassi alla Basilica di San Pietro, mi rubassi un candelabro d'oro, dopodiché dico vado a confessarmi e finisce là. Cioè è la stessa cosa, ecco. Cioè dici, no, non è una questione di perdono, è una questione di giustizia. È una questione di giustizia, non è una questione di peccati, è una questione di reati. Questi sono reati. Grazie Andrea. Quindi un po' di notizie sono venute fuori, un po' qua, un po' là, anche grazie a collegamenti con cose, che agenzie che stavo guardando adesso. Sono poi molte altre. Sentiamo per esempio Mario da Grosseto. Che cosa si soffermerà Mario da Grosseto? Pronto? Stai spolverando Mario, che stai facendo? No, sto qua. Non ero in saluto, ero in linea. Tanto ecco. Buon primo maggio. Grazie anche a te Mario. Volevo fare un piccolo spot che fa riflettere un po' sulle centrali nucleari. Sì. Dunque io come attività ho per moltissimo tempo tradotto testi riguardo all'atomo, come traduttore tecnico di questo settore, quindi ho una piccola conoscenza. E quello che noto in generale è che coloro che sono favorevoli all'atomo o non hanno nessuna competenza specifica nel campo e quindi parlano così per sentito dire o per un'opinione politica, oppure hanno forti interessi di tipo economico dal punto di vista della costruzione della centrale. Alcuni aspetti, ad esempio, che non vengono mai presi in considerazione, sono tutti i pericoli, gli effetti negativi che ha l'atomo in tutte le sue fasi di realizzazione, ad iniziare dal momento estrattivo dell'uranio. In tutte le zone dove l'uranio viene estratto si producono in tempi, con effetti che si protraggono per tempi lunghissimi, degli effetti estremamente negativi per le popolazioni che vivono nei dintorni, chiamando dintorni anche distanze di notevoli chilometri, dato che il vento porta microparticelle a spasso, radioattive, che producono dei danni incommensurabili sulle persone, sugli animali e sulle cose. Basta andare a vedere per esempio negli Stati Uniti, dove uno dei giacimenti d'uranio più vecchi era stato realizzato nella prossimità di una riserva indiana e a distanza ma di moltissimi anni, cioè tipo 10-12 anni, perché prima ancora sembrava che quasi gli facesse bene, ci sono stati tutta una serie di casi di effetti estremamente negativi sulla popolazione. Quindi cominciamo, dal momento dell'estrazione già ci sono dei danni notevoli, pericoli grossissimi. Tralasciamo poi il discorso di incidenti possibili, eccetera, no? Perché mettiamo, noi siamo così tecnologicamente sicuri che nulla potrà accadere, vediamo per esempio la piattaforma che in questo momento sta inquinando tutto il Golfo del Messico, la piattaforma petrolifera. Sicurissima, controllata un anno fa, credo, dai tecnici. Immaginiamo se invece di questa fosse una centrale nucleare, cosa produrrebbe, ma questo qua diciamo lasciamolo perdere. L'altro aspetto è poi che dove mettiamo il materiale, le scorie, dici? Un altro aspetto è questo: se l'Italia si trovasse negli Stati Uniti, una centrale nucleare non verrebbe costruita, perché le città sono molto raggruppate e sarebbero molto più vicine in rapporto ai parametri degli Stati Uniti nella realizzazione di questi siti, sia per la ben nota sismicità del nostro terreno. Comunque, ecco, Mario, allora, ecco, diciamo che Berlusconi ha annunciato la prima centrale nucleare per il 2013, anche se non è chiaro bene dove. Però ti volevo fare un'altra domanda, volevo passare a un'altra notizia, Mario, me lo consenti? Mario, mi consenta? No, dicevo che il Presidente del Consiglio ha annunciato comunque che la prima centrale nucleare in Italia si comincerà a costruire nel 2013, anche se non si sa esattamente dove. Ma passiamo a un'altra notizia, volevo chiederti questa cosa, mi senti? Sì. Ecco, sai che c'è stata questa proposta della Lega di separare l'Emilia dalla Romagna, cosa ne pensi? Di separare? L'Emilia dalla Romagna! Qua siamo nella follia pura. È molto interessante. Da una parte ci fu un po' di anni fa il movimento verso l'Europa delle Nazioni e l'Europa Unita, adesso invece il giardino di casa mia ha diritto di indipendenza rispetto al giardino del mio vicino, cioè mi sembra veramente... Mi pare che fosse notizia di oggi che Viterbo, e adesso vado a rivederla sul Corriere.it, Viterbo... Latina e Frosinone giurano la secessione da Roma, quindi qui è proprio tutto un dividersi, un separarsi, cioè forse sono i flussi e riflussi umani, un po' si vuole stare insieme, un po' ci si vuole separare, un po' piace una cosa, un po' ne piace un'altra. Comunque Mario da Grosseto, grazie intanto e buon viaggio, per sentivo il sottofondo, questo fruscio viaggiante, e vorrei sentire sempre il numero verde 800 24 00 24 Luca dalla provincia di Cosenza. Luca? Buongiorno. Buon primo maggio a tutti. A te Luca, grazie. Io avevo chiamato un po' visto che oggi è il primo maggio, la festa dei lavoratori. Questa mattina, essendo un giovane laureato, però da un anno non riesco a trovare lavoro, riflettevo un po' sul significato di questa giornata. Perché a prescindere dal colore delle persone che ci governano, il nostro paese sta avendo sempre un aumento della disoccupazione. 8,8% è dato di ieri. 8,8% ed è un problema grosso, perché almeno come la vedo io, questa economia che deve girare deve basarsi anche su questi giovani, perché poi i giovani mantengono anche il sistema pensionistico, fanno girare l'economia, la famiglia in genere. E quindi è il problema che sentivo in TV, che i vari politici oggi dicevano sì, dobbiamo aiutare i giovani, il governo ha detto sì, c'è un programma per questi giovani, però alla fine cosa c'è di concreto? Sono parecchi anni che i giovani si fermano, si laureano e poi non riescono a trovare lo sbocco nel settore nel quale si laureano. Anzi, la disoccupazione giovanile viene al primo posto, poi subito quella delle donne, figuriamoci, tanto per cambiare. Luca, mi dispiace della tua situazione, posso chiederti quanti anni hai? Io ce n'ho 27. Ah, ma sei giovane, per fortuna. Sono laureato da 3 anni, sono da provincia di Cosenza, in scienza della comunicazione, quindi è anche un settore vicino al vostro. Perché, Forse fin troppo congestionato però, sai, a questo punto, sì, Luca. Sì. anche troppe università che sfornano tanti giovani laureati, che però poi, se sono troppe anche le università e troppi quindi i giovani che ne fuoriescono, dove lo trovano poi il lavoro in un settore che si sta sempre un po' più contraendo? Sì, anche diciamo, perché poi siamo costretti, io, i miei amici vivono a Londra perché lavorano là, laureati, fanno i camerieri, cioè questa è la situazione. Ne ho incontrati molti, ne ho incontrati molti i giorni scorsi, che sono rimasta prigioniera del vulcano islandese a Londra. Ho incontrato molti giovani laureati con varie esperienze che poi appunto servivano nelle catene o nei ristoranti a Londra, che può essere un'esperienza purché sia passeggera, se uno ha diciamo altre prospettive nella vita, ho fatto gli studi per avere diciamo altri approdi. Luca, intanto buona fortuna, tieni duro. Grazie Luca. Grazie a voi. Lorella Zanardo. Ma io vi seguivo con grande attenzione e volevo ritornare un attimo al commento di Mario di Grosseto, no? Sì, sul nucleare. Che secondo me ha toccato un punto, al di là delle sue competenze tecniche che ci hanno chiarito un punto interessantissimo, però volevo portare l'attenzione su un fatto che riguarda tutti i temi, anche quello che io ho trattato nel libro Il corpo delle donne, anche quello del nucleare, che è l'importanza di informarci, di essere autonomi per poter poi decidere, no? Il nostro ascoltatore Mario ha fatto un intervento interessantissimo e quindi noi potremmo suggerire al nostro presidente Berlusconi che anziché fare degli spot su l'importanza di avere le centrali nucleari, sarebbe interessante avere tanti opinionisti come Mario che ci dicono i pro e i contro, in modo tale che poi siamo noi singolarmente a farcene decidere, un'idea, no? La stessa cosa per esempio è successa con il vaccino antinfluenzale quest'inverno, no? C'è stata una rincorsa mostruosa, scorte enormi di vaccino, dopodiché tre mesi dopo ci hanno detto ma forse ne abbiamo comprati troppi, forse non è vero che si moriva di questa influenza, con un costo per lo Stato enorme di vaccini di cui non ci siamo fatti nulla. Tutte le informazioni sulla necessità o meno del vaccino erano in effetti facilmente reperibili in rete e quindi io propongo che se ognuno di noi si riappropriasse della propria vita e investisse, io a volte dico mezz'ora al giorno, alla sera, anziché guardare la televisione o prima di guardare la televisione, nell'informazione, se diventassimo tutti, io per prima, un pochino meno pigri, saremmo magari in grado di giudicare e senza farci troppo guidare, che è un po' il problema di quest'epoca, no? La pubblicità così invasiva, in particolare in Italia, una televisione così invasiva, fa sì che noi non decidiamo più, non siamo più padroni delle nostre vite, ci facciamo vaccinare, tre mesi dopo capiamo di aver sbagliato, votiamo per il nucleare, tre mesi dopo capiamo che forse non era la decisione migliore. Quindi proprio l'ascoltatore Mario mi ha fatto riflettere un'altra volta in più sul fatto di come sia importante decidere in modo autonomo, bisogna essere un pochino meno pigri, lo dico a me stessa per prima. Dimmi una cosa Lorella, invece tra sulla proposta di separazione della Lega tra Emilia e Romagna, che ne pensi? Mi viene da piangere, non voglio... Qui in diretta vuoi piangere allora? No, voglio piangere dopo. In diretta, non le voglio sentire queste cose, non le voglio sentire e torno a quello che dicevo prima, io non sono una storica, però capisco quanto sia importante avere la prospettiva storica per capire che abbiamo lottato per l'unità di questo paese e adesso sentire queste proposte dettate dall'ignoranza, ma ignoranza nel senso di ignorare, no? Che senso ha tutto questo? E quindi anche qui l'importanza di informarci, di far sì che la storia diventi una materia fondamentale nelle scuole, non una noia mortale, io mi ricordo che mi annoiavo a morte, c'è un modo di insegnare la storia che fa capire quanto sia indispensabile per evitare che oggi poi noi si senta una proposta del genere, no? Se vi fosse qualche emiliano, qualche romagnolo, qualche mil romagnolo o mil romagnola che fosse d'accordo invece con questa separazione, ce lo faccia sapere, numero verde, anche per le altre notizie della settimana, 800 24 00 24. Colonnello Giuliacci, adesso va bene che la primavera va un po' su, va un po' giù, doveva arrivare già un po' di tempo fa, adesso siamo in ritardo, cosa questi cambiamenti climatici improvvisi dal sole alla pioggia, al grigio, com'è? Ma hai ragione, voglio dire, a parte sì, quest'anno io ammetto che la primavera è stata un po' più piovosa e inclemente degli anni passati in genere, però la primavera è questa, non ci possiamo aspettare, insomma, tutti i giorni temperature gradevoli e miti e cielo sereno. La primavera è nota per la sua pazzerella. Quindi ci sta anche questo, anche se quest'anno un po' in effetti eccede, no? Non è finita qui. No, tanto vedi, questo fine settimana è parzialmente rovinato al centro, non al sud, dove il tempo resterà bello per tutto il fine settimana. Vabbè. Parzialmente rovinato al centro, sicuramente rovinato al nord, dove già. Ci sono nuvoloni, sì. No? Soprattutto sulle regioni di nord-ovest. Nel tardo pomeriggio sera piogge su gran parte delle aree poste a nord del Po, domani piogge su tutto il centro-nord, quasi direi. Poi vabbè, migliora sulle riviere di Ponente, sul Piemonte, però voglio dire, è una giornata brutta, bruttina domani. E addirittura tra lunedì e martedì farà anche un po' fresco al nord, mentre al sud addirittura sfioreremo, soprattutto sulla Sicilia, i 30 gradi tra lunedì e martedì. E comunque, guarda, anche la prossima settimana sarà una settimana tormentata dalla pioggia, parleremo più di pioggia. Ma sì, non ci si annoia mai, via. Io credo, guarda, questo è il mio pensiero personale, sì. Ma suffragato ovviamente da cognizione di causa, che passeremo bruscamente da questo tempo inclemente a situazione estiva, addirittura qualche ondata di caldo verso l'ultima decade di questo mese. Non ci sono più le mezze stagioni, colonnello Giuliaci, io lo confermo ogni volta. È così? Certo. Grazie, colonnello. Volevi aggiungere qualcosa, colonnello? No. Mario? No, nulla. Non avevo sentito la tua conclusione. Confermo, ti ringrazio. Un saluto a te. Grazie. Ciao, colonnello Giuliaci. Comunque a te un fine settimana solare, comunque sia. C'è Anita da Reggio Emilia, la quale chiedo adesso, lo sapete, quando comincio a essere in corsa verso la fine, abbrevio i tempi. Anita, scusami. Ok. Grazie, ciao, della pazienza. Ciao, Anita. Voglio dire questo. Sì. Io sono da Reggio Emilia, sono un'emiliana. Ah, giusto, tu sei da Reggio Emilia, quindi vuoi l'Emilia e la Romagna. Emilia. E mi chiedo quale altra idea più allucinante possa partorire una mente umana di dividere la nostra regione in Emilia e Romagna, fa anche rima. Si dovrebbero ricordare, quelli che propongono queste idee, prima di tutto, quanta gente in Emilia Romagna al giorno d'oggi ha fame, perde continuamente il posto di lavoro, queste sono le idee giuste, e oggi che è il 1° maggio, festa del lavoro, dovrebbero pensare che le prime cooperative di lavoro e di consumo sono nate proprio in Emilia per sopperire alla miseria degli operai, e qui sono state costituite le prime casse di mutuo soccorso, che sarebbero come la mutua al giorno d'oggi. Io ho fatto studiare queste cose anche ai miei alunni. Secondo me faccio prestissimo. Sì. E questo, dunque, a proposito del corpo delle donne, sì. Io penso che finché noi ci ripieghiamo su noi stessi, ma questo in tutti i campi, adesso prendiamo quello della bellezza, delle veline, di tutte quelle schifezze che ci fanno vedere per televisione, ripiegati su di noi avremo sempre della sofferenza, bisogna che noi indirizziamo il nostro sguardo oltre, esistono anche gli altri, cosa che i ragazzi del giorno d'oggi, poveretti e mi fanno tanta pena, non sono mai stati educati a questo valore. Se noi fin da piccoli veniamo educati al fatto che non esistiamo solo noi, ma ci sono anche gli altri, allora passerà in seconda linea, sono gli occhi neri, gli azzurri, i capelli biondi, li voglio tingere di rosso, eccetera, perché oltre a essere una persona degna di stare al mondo, cioè di pitturarmi, di vestirmi bene, di tutto, avrò anche la soddisfazione, la gioia vera di aiutare gli altri. Ci sono tanti mezzi al giorno d'oggi. Anita! E fino ai piccoli, quando rivesto, ma che? Perché le firme? Non prendiamo quest'altro vestito perché i soldi che risparmiamo, con questi soldi possiamo aiutare questo il prossimo. Anita, ti ringrazio, proprio quasi in chiusura, ha chiamato una Reggio Emilio Romagnola, convinta dell'unità della regione. Prima di ripassare la palla a Lorella Zanardo, mi pare opportuno, come sempre il nostro appuntamento è immancabile, con la grande Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale vorrei chiedere, visto che non abbiamo toccato per niente la politica in questa puntata, sapete che si è dimesso Bocchino, finiano di minoranza, ex vice capogruppo del PDL alla Camera, ha detto sono stato epurato da Berlusconi, ritorna un po' questo termine dell'epurazione. Valeria, che pensi dell'epurazione? Dunque, penso che questo è un buon esempio per farci vedere quanto le parole non siano mai neutre e quanto quindi Bocchino abbia scelto una parola che evoca cose negative anche del passato, no? Quindi quello che colpisce è che non ha scelto la parola, non ha detto sono stato dimissionato e non ha detto eliminazione o estromissione o allontanamento, ma epurazione. La farò breve, ma epurazione è una parola che col senso di appunto estromissione da un gruppo di qualcuno che è considerato indegno, una parola che ha assunto questo significato nel Settecento, ma in particolare per la lingua italiana la parola epurazione ha significato allontanamento dal secondo dopoguerra e quindi tutti i provvedimenti che hanno colpito le persone compromesse col fascismo. Quindi ecco che è una parola che ha proprio un'aura fortemente negativa e di grande forza. Allora ecco che ci serve come esempio per vedere anche come salga la temperatura, no, del conflitto attraverso parole che non hanno solo un loro significato obiettivo, ma è andato a scegliere, devo riconoscere con grande abilità, perché è una parola che evoca un passato lontano e che forse non vorremmo rivivere. Ecco, epurazione, epurato in luogo di parole più piane, più neutre. Grazie Valeria Della Valle, buon primo maggio a te cara Valeria, e hanno lavorato con me oggi, con i lavoratori, alla parte tecnica Carmelo Lauricella e ai telefoni infuocati vostri Giorgio De Luca. Lorella Zanardo, diciamo in questi 33 secondi che ci rimangono, che conclusione porteresti? Porterei, mi offre lo spunto l'ultima ascoltatrice Anita, sì, con cui concordo assolutamente. Io direi che tutta questa attenzione che al corpo a cui ci costringe la televisione, senza dimenticare il corpo, che è importantissimo, però mi fa pensare le parole che ha detto la presidente dell'India, l'India è una presidente donna, Pratibha Patil, del discorso di insediamento. Ha detto un discorso, ha detto una cosa importantissima, vicina a quello che ci ha detto l'ascoltatrice Anita: le donne dovranno rendersi responsabili dello sviluppo sostenibile della terra. Quante responsabilità ste donne, Lorella? Però è bello, no? Quindi mi piacerebbe salutarvi con questo auspicio. E noi ti salutiamo, ti saluto molto grata. Grazie a Lorella Zanardo. Il grazie corpo, a voi. Il corpo delle donne, il suo libro, che tra l'altro è stato presentato recentemente anche al Senato. Complimenti da Roberta Giordano. Buon primo maggio, naturalmente. Sereni orizzonti a tutti.